Feta X Oris. Che noi da qui in poi, tranne che se o se mancassero i temi, i rigori, gli schemi, i colori, i pensieri, gli umori, i sentieri, muovendoci come gli alfieri. Tu non voltarti, cancella tutti i ricordi e scappa. Prendi le verità e scappa, prendi anche quest'ultima. Tutti col senno di poi eroi, tu dimmi quale eroi, tu dimmi quanto ne vuoi. Ora eterni e mi fa rabbia, l'esuberanza del mio tempo, una vergogna, propaganda, tutte sale, tutte in vendita, baratto la mia dignità, campo di questa rendita, propaganda, tutte sale, tutte in vendita, baratto la mia dignità. Citarsi o non che sia utile anche fino a se stessi e non sempre siamo pronti, tutto capita di dover trovare il rigore nell'astratto. Io aspetto, muovi i piedi passi ad uno, i respiri ad uno, i pensieri ad uno, mi cerco oltre me ma trovo ben poco, un futuro cieco non mi basta, ossigeno, pietà e chino la testa, sposto le pietre nel selciato, un sociale allucinato ed io solo contro il mio demonio, carne, ossa e tant'altro carbonio, ma perdo sangue, sono debole, ma io sono già il colpevole. Giuda, mi confida Giuda, il mio migliore amico Giuda, cazzo parlo solo troppo spesso, sono Giuda. Propaganda, tutte sale, tutte in vendita, baratto la mia dignità, campo di questa rendita. Propaganda, tutte sale, tutte in vendita, baratto la mia dignità. Propaganda, baratto la mia dignità, campo di questa rendita. Propaganda, tutte sale, tutte in vendita, baratto la mia dignità. Al contrario di tutto, tutti e niente, tutti artefici avulsi di un sistema altalenante, tra fedo frode, tu bruto figli mi cuoque, chi ha raggiunto e chi insegue, la scala del sociale si muove, blatera blatera in un blatera game, blatera blatera in un blatera game, blatera blatera in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game, in un blatera game. Blood. Thank you.